Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Chiedo chi accompagnerà i disabili a far pipì e chi gli aiuterà ad alzarsi dal letto, così come mi chiedo come i minori che sono in difficoltà potranno mangiare. Di tagli agli sprechi parlano tutti, ma finora di nero su bianco si è visto poco o nulla. La sforbiciata al sociale invece è scritta a chiare lettere. Lo denuncia in un documento Ileana Argentin, deputata del PD, che lotta in prima persona con la disabilità. Nel 2015 da 970 milioni si passa a 550, meno 420 milioni. Di questi 100 milioni in meno ai fondi per le non autosufficienze, 50 in meno alle politiche sociali, mentre i fondi per l'inserimento dei lavoratori disabili e quello per l'infanzia e l'adolescenza non verranno rifinanziati. I conti devono quadrare, ma dietro i numeri ci sono persone. È un punto doloroso. Nel nostro paese ci sono persone per cui ogni taglio possibile e immaginabile, ogni osservazione sullo spreco, sulla crapula della classe dirigente, è una ferita insanabile. Sono le persone non autosufficienti, sono le persone che hanno dei problemi per gestire la propria vita quotidiana e quindi hanno bisogno di aiuto. Sono persone che o si aiutano ad avere una vita dignitosa, avere una vita di relazione, avere una vita che li consideri esseri umani, o sono persone che naturalmente non hanno ragione di esistere. Tagliare i fondi destinati a queste persone equivale a volerli in qualche maniera cancellare dal consesso umano. Significa come ucciderli. Per una persona disabile, per una persona non autosufficiente, avere delle limitazioni ai suoi strumenti di vita quotidiana significa mettere le condizioni di non vivere. A me possono dire stringi la cinghia, mi arrabbio, bestemmio, impreco, stringo la cinghia, taglio qualcosa della mia vita quotidiana, ma comunque sopravvivo, comunque la mattina mi alzo, mi vesto, esco di casa, vado a fare il mio lavoro, ho delle relazioni, parlo con le persone. Ci sono persone per cui togliere anche una piccola parte di quello che la società come suo impegno preciso, proprio perché è fatta di esseri umani che devono farsi carico anche degli altri esseri umani che hanno problemi maggiori di vita quotidiana, significa tagliare comunque qualcosa di indispensabile. Togliere un'assistenza a una persona disabile, non possibilità, impossibilitato a muoversi, ad ambulare, a provvedere alla propria persona, significa costringerlo a una vita non più umana. Togliere l'assistenza e togliere l'abilitazione, un disabile psichico che ogni giorno deve essere comunque stimolato, su lui bisogna lavorare perché possa avere una vita relazionale e una vita il più possibile autosufficiente, significa ridurlo allo stato manicomiale, chiuderlo in una stanza e riempirlo di psicofarmaci perché non deve dare fastidio alla società. Ora, in una società in cui siamo tutti allegri, danciani, mettiamo le camicie bianche, ci tiriamo grandi secchiate di ghiaccio sulla testa per dimostrare quanto siamo solidali per le persone che stanno peggio, non è ammissibile che ci sia soltanto il sospetto che nella legge di stabilità ci sia un taglio consistente di 100 milioni per i cittadini italiani non autosufficienti, che sono tanti. Io vorrei subito entrare in merito a questa vicenda che sta colpendo soprattutto le persone e le famiglie che devono gestire queste persone. Il resto dell'Italia probabilmente molto più disinteressata a questo fatto, perché la non autosufficienza, la disabilità, i problemi gravi legati all'individuo e alla persona si riverberano soprattutto sulle famiglie. Al di fuori delle famiglie il problema è un po' meno sentito. Le persone più aperte e più disponibili, buonanimo, possono fare una carezza, possono dire a poveretti, a Dio ci penserà, ci penseranno le persone di buona volontà, ma non ci devono pensare loro, ci devono pensare le istituzioni, ci devono pensare le persone che gestiscono i soldi ricavati dalle nostre tasse e devono gestirli in questa direzione. Oggi di questo parlo. Stefano Caredda, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. È giornalista di Redattore Sociale, 800240024, quelli tra voi che si sentono toccati da questo problema, di questo possibile taglio ai fondi non autosufficienza, questa mattina sono pregati di far sentire la loro voce. Stefano, mi spieghi in termini comprensibili cosa sta accadendo e qual è la situazione critica in questo momento? Ma guarda, sta accadendo fondamentalmente questo. Parliamo di un fondo, il fondo non autosufficienza, che è un fondo che è destinato a coprire i costi sociali dei costi sociosanitari delle persone non autosufficienti. Le persone autosufficienti hanno bisogno di un'assistenza sociosanitaria, questo fondo copre i costi sociali, gli altri sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Ok? questo fondo, che è stato istituito dalla finanziaria del 2007, quindi è relativamente giovane, si vede quest'anno rispetto all'anno scorso togliere 100 milioni. Che poi è quasi un terzo della cifra complessiva. Era quasi un terzo della cifra complessiva. Lo scorso anno sono stati stanziati complessivamente 350 milioni, 275 milioni il fondo base e 75 destinati esclusivamente all'assistenza delle disabilità gravissime. Quest'anno da 350 si scende nella prima bozza della legge di stabilità, in quella presentata dal governo al Parlamento, a quota 250. Cioè tu mi stai dicendo che chi ha lavorato da parte del governo alla legge di stabilità ha pensato uno su tre delle persone non autosufficienti se ne sta a casa e si attacca, perché questa è la sintesi. Sostanzialmente sì, è anche vero che questo succede tutti gli anni. Anche la prima bozza della legge di stabilità dello scorso anno dava 250 milioni. Poi ci sono state le proteste, le persone disabili che sono scese in piazza e raschia raschia si sono trovati altri 100 milioni. Vincenzo Falabella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Vincenzo Falabella, se puoi togliere il viva voce, forse ti sentiamo un po' male, se puoi parlare sì. Più. È presidente della FISC, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Cosa accadrà domani e perché domani ci sarà una mobilitazione generale? Ma domani accadrà questo. Noi siamo stati convocati dal ministro Poletti al Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, proprio perché a seguito di un incontro interministeriale tenutosi circa 10 giorni fa avevamo manifestato le nostre perplessità di fronte a questo taglio indiscriminato del fondo per le non autosufficienze. Domani abbiamo questo incontro e valuteremo insieme al ministro Poletti, insieme al sottosegretario Biondelli, se vi è da parte del ministero, ma soprattutto da parte del governo, la volontà specifica di andare a rifinanziare questo fondo, ma ancor di più noi chiediamo che il governo in questo momento pianifichi una politica mirata per le politiche sociali in un triennio che vale dal 2015 al 2017. Beh, questo aveva promesso il Premier Renzi, mi pare. Ma il Premier Renzi nell'ultima giornata della Leopolda aveva lanciato uno slogan politico, ossia quello di rifinanziare il fondo a 350 milioni di euro. Noi crediamo. Sì, però scusa, il testo firmato dal presidente era ancora comprensivo del taglio mentre lo diceva. Sì. Il testo firmato attesta il fondo per la non autosufficienza a 250 milioni di euro. Però io vorrei a questo punto fare un'analisi ancora più completa. Noi abbiamo da una parte i dati Istat che certificano che la spesa sociale per la disabilità è inferiore di mezzo punto di prodotto interno lordo rispetto alla media europea, che si attesta intorno ai 2,1%. Quindi erano pochi anche 3,50. Sono pochi anche 3,50. A questo si deve aggiungere un altro dato, perché noi dobbiamo parlare di numeri, perché con i numeri forse facciamo chiarezza. In Italia la spesa pro capite è di 423 euro l'anno, la media europea è di 536 euro pro capite. Quindi, come vedete, anche su questo dato l'Italia si pone sempre negli ultimi posti. Ma come ti spieghi, Vincenzo, che un governo così attento all'immagine, così attento, diciamo, al consenso in tutte le sue forme, abbia sottovalutato che su un problema così vitale di persone per cui questo taglio corrisponde a vivere e non vivere, non corrisponde a rinunciare a qualcosa, a vivere e non vivere, non abbia valutato ci sarebbe stata una reazione? Ma io credo che il governo aveva previsto questa reazione, una reazione forte da parte del movimento associativo, una reazione dovuta al fatto che il taglio sul fondo per le non autosufficienze, il taglio sul fondo per le politiche sociali, attenzione, perché le politiche sociali erano state finanziate a 317 milioni di euro, sono state quest'anno finanziate a 300 milioni di euro, 100 milioni dei quali va per l'infanzia, quindi abbiamo 200 milioni dedicati alle politiche sociali. In più abbiamo un taglio ancora più corposo, che sono i 5 miliardi agli enti territoriali, quindi i servizi territoriali subiranno sicuramente una riduzione. Questo significa, tradotto in parole povere, a incentivare l'impoverimento sociale e di conseguenza di incentivare la segregazione e l'emarginazione per le tante persone con disabilità che vivono nel nostro paese. Allora fermiamoci un attimo, sono degli ascoltatori. Mi viene da pensare che la soluzione sia, primo si immagina che dietro un disabile o non autosufficiente non ci siano un potenziale bacino di voti, che la politica attenta ai voti, è inutile questo, ma sta nelle cose. Quindi pensano, dice, questi comunque, qualunque bastonata gli diamo non reagiscono. Seconda cosa, le soluzioni sono delle grandi centrali di ammasso in cui si abbassi il livello di servizio, se queste sono le soluzioni. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io volevo esprimere un parere da ragioniere. Se certi aiuti a disabili, invalidi, drogati, ultracentenari si possono fare, si facciano. Ma se il paese Italia è stato fallimentare e dovrebbe consegnare i libri in tribunale, fosse un'azienda normale, non si fa. Perché se un padre di famiglia ha due figli, uno abile e uno disabile, se i soldi li ha per mantenere tutti e due, li mantenga tutti e due. Non è il caso che butti dalla rupe tarpea il disabile. Ma se non può, se è disoccupato, se è in mobilità, cosa no, deve non ho capito fare? Il senso, scusi, il senso del suo intervento. Figlio abile per far sopravvivere il figlio disabile? Scusi, lei ha parenti disabili, figli disabili? No, io non ne ho, ma non ne voglio neanche avere. Cioè, ma nessuno ne vuole avere. Guardi, disabile. Se è una scelta... Però, siccome ha più di 70 anni, non credo che sia un grosso problema. Ma lei, la sua disabilità consiste nel fatto innanzitutto di esprimersi in questa maniera, se mi permette. Insomma, guardi, io sono uno che non sono un pensionato. Sì, ma poi anche lei dovrà... Per il Mediterraneo sì. Fare le crociere. Sì, ho capito. No? Ma perché lei... Pago le imposte fino all'ultimo. Però siccome so che c'è molta, molta gente che è disoccupata, in mobilità, che è disoccupato d'altro, possiamo mantenerli questa gente? Le manteniamo. Ma se non possiamo... Vabbè, io mi auguro che quando cercherà una persona che le debba mettere il catetere si ricordi di quello che ha detto adesso. Vincenzo da Rimini, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Io volevo evidenziare un'anomalia tipica del nostro Stato. Io ho una bimba di 32 anni, invalida grave, che ha una pensione e un assegno di accompagnamento di 700 euro al mese circa. Mentre un esempio... che è tangibile, non so, un invalido civile cieco, quindi un cieco assoluto, in Italia percepisce una pensione di 1.300 euro al mese. E mi sono sempre chiesto, fra una invalidità legata all'assenza di un senso che è la vista ed un'invalidità grave mentale, quale possa essere la sperequazione che porta a questa differenza? Ecco, poi magari le faccio rispondere a Falabella. Questo è un problema nel problema. Poi all'interno della categoria. Detto... Sì, no, ma guardi, vivo il suo problema. No, qualcuno mi ha detto tempo fa che i ciechi votano. Ha ragione, i ciechi votano. Sì, ma anche lei vota. Però... Sì, ma anche lei vota. Certo, le assicuro che. Mia figlia no. Lo so, sì, però il suo voto equivale comunque, ma. Ha perfettamente ragione, perché all'interno del problema, poi chiederò a Falabella se vuol dire una parola su questo, è chiaro, ma in questo momento non vorrei riportare in luce la guerra fra poveri e fra le categorie dei disabili. È vero, ci sono delle grosse sperequazioni, ma lo so perfettamente, conosco il problema, mi creda. Bruno, soltanto Bruno, poi passiamo all'informazione del traffico, velocemente. Bruno. Sì, buongiorno. Dunque, ciò che avete detto può anche essere giusto, ma insomma è solo un problema politico. Il problema pratico è che io sono disabile al 100%, non ho una grave malattia, però sono inabile al lavoro e ho la mobilità ridotta al 50%, sono solo e devo vivere con 290 euro al mese. Questo è il mio problema. Poi che si voti, non si voti. Queste sono cose relative, però io mi domando come si fa, cioè devo andare a rubare, non so, non ho alternative. Beh, se si muove male non le consiglio un'altra attività possibile, perché poi bisogna scappare. Al di là della battuta, stiamo parlando esattamente di persone come lei, esatto. Il cui taglio del già poco che hanno corrisponde all'impossibilità di avere una vita, non una vita decente, di avere una vita. A tra poco, dopo il traffico, fra un istante. Melog. Cronache meridiane. Stiamo parlando dei tagli nella legge di stabilità al fondo di non autosufficienza. Abbiamo sentito qualche ascoltatore, abbiamo persone informate alla materia. Poi volevo immediatamente fare intervenire Stefano Caredda, che è un giornalista e redattore sociale, che è la prima agenzia in Italia che si occupa di sociale e forse anche l'unica che se ne occupa in maniera profonda, seria e informata. Stefano, secondo te, non ti dico di avere la sfera di cristallo in mano, ma quali saranno le strategie a fronte di questa imbarazzante vicenda che colpisce il governo, che c'ha questo aspetto sorridente, ridanciano, aperto, vogliamoci tutti bene, siamo tutti giovani e carini? Ecco, hai sentito il tono delle telefonate, mi sembra che risponda esattamente a quello che è poi l'essenza del problema. Sì, direi di sì, ma guarda, forse pur senza avere la palla di cristallo è molto facile capire quello che succederà, nel senso che è esattamente quello che è successo. Tirano la coperta da un'altra parte e coprono. Le prime bozze hanno sempre, della legge di stabilità, anche nel 2011, anche nel 2012, hanno sempre tolto rispetto a quello che era stato dato fino a quel momento. Dopo le proteste si è riconcesso il livello base che si aveva, facendolo passare in qualche modo come stiamo rifinanziando nuovamente il fondo. Il risultato è che questo fondo sta sempre lì, 275 milioni nel 2013, 350 nel 2014, forse ancora 350 nel 2015, ma è fermo, le esigenze sono molto più ampie e non si riesce a fare. Ma cosa vengono considerati dei cittadini di serie B, non efficienti, non politicamente attivi? Perché verso i non autosufficienti c'è questo senso di disprezzo così radicato? Ma guarda, le motivazioni possono essere tante effettivamente. Perché non conviene nemmeno dal punto di vista dell'immagine politica, farebbero molta miglior figura a tagliare soldi a categorie più opulente e dire li diamo ai disabili. Sai che c'è? Che è più facile tagliare queste. Ecco, perché non protestano, hanno già una vita talmente problematica. Protestano anche. Ma non li sente nessuno. Il punto è che è molto più facile tagliarli proprio materialmente, insomma, ecco. Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno, io sono letteralmente indignata prima per la prima telefonata. Io sono disabile e volevo dire che a beh, me lei era anche un po' pietà dei rincoglioniti, ogni tanto succede. Sì. A me danno 280-79 euro al mese, non collocabile al lavoro, invalida al 100%, e questi stanno parlando di tagliare ancora. Cioè, io trovo che sia folle, letteralmente folle, ma perché? Perché un disabile non serve a niente, è questo quello che volevo dire, perché è assurdo, basta. Beh, ma sarebbe più onesto dire non li vogliamo più, non li facciamo nemmeno vivere. Parla una persona che ha un figlio disabile, quindi conosco il problema. Non so, sì, no, lo so perché l'ascolto tutti i giorni. Ecco, quindi è per quello che non capisco, mia figlia è insegnante e ci troviamo insegnanti di ginnastica che fanno l'insegnante di sostegno, insegnanti di musica, hanno chiamato pure lei che è insegnante di lettere a fare l'insegnante di sostegno, ma ci rendiamo conto che preparazione può avere un insegnante di ginnastica, di lettere, per aiutare un bambino? È un problema che, se Dio vuole, al MIUR è affrontato, stanno lavorando per una specializzazione degli insegnanti di sostegno, però il problema sarà che i sindacati non manderanno giù questa necessità di qualificazione. Maria Cristina è andata. Simona. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Complimenti per la trasmissione. Vada al punto. Dicevo, ma se tutti noi, cioè io nel mio piccolo già denuncio i falsi invalidi o chi c'ha i tesserini di invalidità per parcheggiare, cioè chi poi non riscuoterà più questa pensione? Spero che andrà, diciamo, ai veri invalidi. Quello che dice lei è sacrosanto, Simona, però no, mi raccomando, non entriamo in un altro trip, che il problema siano i falsi invalidi. Il problema dei falsi invalidi viene molto pompato, figuriamoci, lo sentiamo sulla pelle tutti noi questo problema, ma non è quello il vero problema. La percentuale dei falsi invalidi rispetto in realtà agli invalidi non soddisfatti è minima. Molte volte le campagne sui falsi invalidi, che aborro in maniera viscerale, figuriamoci cosa ne farei io dei falsi invalidi, però mi creda, sono molto pompate per far credere che in realtà il mondo dei disabili, il mondo dei non autosufficienti, sia un mondo di profittatori. Non è esattamente così. Vincenzo Falabella, ricordo, presidente della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Andiamo al punto, intanto un commento su quello che hai sentito finora e un piano operativo per quello che accadrà domani. Ma innanzitutto mi associo all'indignazione rispetto alla prima telefonata. Io credo che quello che è il contenuto apodittica sotto certi aspetti delle affermazioni rese, manifesta ancora una volta questa situazione. Però è un atteggiamento che esiste, l'ho fatta sentire, perché è, sì, è la pancia del paese pensa questo, ma non rompano le palle questi che vogliono. Ma questa è stata un po' la notizia che è ribaltata su tutti i giornali, su tutti i media, dei cosiddetti falsi invalidi. Ancora oggi si parla di falsi invalidi, nonostante i numeri che la federazione ha prodotto e le varie risposte ad interrogazioni parlamentari del sottosegretario Biondelli e anche del ministro Poletti, ha evidenziato come il fenomeno dei falsi invalidi non era poi così imponente come avevano voluto far passare i precedenti governi. Detto questo, ritornando su quello che è l'oggetto della trasmissione, oggetto concreto, noi oggi abbiamo un taglio. Scusa se mi permetto, Vincenzo, sì, lo ricordo per gli ascoltatori, Vincenzo che è un caro amico, è un ragazzo che un giorno cadde da cavallo e sta su una sedia a rotelle, lo dico perché sennò sembra che parliamo di problemi astratti, scusami Vincenzo, ma alla radio non lo sanno. Certo, sono una persona con disabilità che vive il problema quotidianamente. E quindi capisco benissimo l'indignazione delle tante persone che oggi vivono con una disabilità nel nostro paese a fronte di una poca attenzione da parte delle istituzioni, e permettetemi questa frase in maniera forte, un menefreghismo e un egoismo da parte della società civile che ci circonda. Senti Vincenzo, passata la giornata di domani, ci sentiremo forse anche in settimana e ci farai il punto di quello che è accaduto. Perfetto, volentieri. A presto. Volentieri. Ciao, un abbraccio e buona giornata a tutti.